America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana perché ieri sono stato ad ascoltare l'audizione del Presidente della Federal Reserve alla Commissione per i Servizi Finanziari alla Camera. Devo dire un'audizione molto interessante, soprattutto per tassi di interesse, ma di questo ve ne parlerò più approfonditamente fra qualche minuto. La Yellen ha anche affrontato le questioni delle regolamentazioni. È un tema molto, molto interessante. Le banche, le istituzioni finanziarie devono essere sotto certi controlli, ma a volte i controlli arrivano a produrre danno piuttosto che beneficio, e vorrei dedicare una puntata intera in realtà a questo tema. Nel frattempo vi racconto un paio di notizie che secondo me sono interessanti. Curiosamente il New York Times ha deciso di mettere in prima pagina la storia di questo ragazzo, Gianclaudio Marengo, che ha partecipato alla maratona, che ha corso alla maratona e che poi si è perso nei meandri della metropolitana newyorkese. Perché il New York Times ha deciso di fare questa storia, di dargli questa visibilità? Beh, perché la maratona è sempre un evento straordinario per la città e un giornale come New York Times cerca così di capire ogni possibile conseguenza e magari come poter migliorare la situazione. Che è successo? Che Gianclaudio Marengo, che ha partecipato alla corsa, tra l'altro nel gruppo di San Patrignano, si è trovato alla fine della corsa da solo perché era rimasto indietro rispetto al gruppo, totalmente stanco. Immaginate chiudere una maratona, poi sappiamo questi sono ragazzi che corrono dopo essere stati riabilitati, dopo essere usciti dal tunnel della droga. Proprio qualche giorno fa vi ho proposto una chiacchierata con una di queste ragazze che aveva corso e che quella sera a cena ci raccontava un po' la sua esperienza. Quella sera a cena Gianclaudio non c'era, lo stavano cercando, lo hanno poi trovato poche ore dopo. Resta il fatto che vanno introdotti degli elementi dal punto di vista degli organizzatori per far sì che se c'è qualcuno che non parla inglese, che si ritrova improvvisamente sperduto fra migliaia di persone, prende la metropolitana e si perde, abbia, come dire, magari la possibilità di comunicare, di avere un segnale per mettersi in contatto con gli organizzatori, i quali poi lo recuperano, lo riportano in albergo e così via. Comunque in quel caso tutto è bene quel che finisce bene. Altra notizia importante, ne abbiamo parlato in passato, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la richiesta dell'Italia di armare due dei suoi droni MQ-9, il Reaper, con missili aria-terra. Questo è uno sviluppo importante anche per la forza del rapporto fra Italia e Stati Uniti. L'Italia è il primo paese autorizzato ad avere droni armati, finora il Congresso nicchiava, non voleva che ci fossero altri paesi ad avere questa possibilità tecnologica. Per noi è uno sviluppo molto importante e ci sarà un acquisto che potrà avere un valore di 129 milioni di dollari. Ecco, un'altra notizia interessante viene dall'Inghilterra. Sono stati bloccati i voli turistici nel Sinai, in Egitto, in alcune località del Sinai dell'Egitto, perché c'è il sospetto sempre più forte che l'aereo russo precipitato sia stato, come dire, attaccato da terroristi. L'America dovrà dire qualcosa in proposito, ancora non l'ha detto. Io per questo ho voluto dedicare la trasmissione dell'altro giorno proprio a questo problema, perché si tratterebbe di uno sviluppo nuovo se questi aerei per turisti sono vulnerabili a attacchi dell'ISIS. Beh, sarebbe gravissimo. Infine, Putin resta l'uomo più potente del mondo. Questo lo ha deciso la rivista Forbes, il magazine Forbes. Al secondo posto la Merkel, poi Obama, Papa Francesco, Xi Jinping. L'unico italiano che è in questa lista, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 11° posto. Questo ci conferma quanto importante sia gestire la politica monetaria dell'Europa o degli Stati Uniti, e ci riporta alle considerazioni sull'audizione di ieri della Yellen. Sentiamola. At this point, I see the US economy as performing well. Ecco, avete sentito, il presidente della Federal Reserve ha detto che la Fed prende in considerazione la performance globale per prendere le sue decisioni in materia di tassi e dice testualmente: al momento quel che vediamo è un'economia interna abbastanza forte che sta crescendo a un passo deciso, controbilanciato da una debolezza dell'economia globale. Ecco, avete sentito, la Yellen è abilissima nel non dare delle risposte precise. La decisione sui tassi potrebbe essere presa già a dicembre, nell'ultima riunione del Federal Open Market Committee della Federal Reserve, del comitato monetario della Federal Reserve, e la possibilità che l'aumento ci sia è molto concreta. Ma questa affermazione, l'economia interna sta bene, ma c'è una debolezza dell'economia globale e dunque dobbiamo anche tenere presente l'economia globale, è un elemento, se vogliamo, nuovo che si aggiunge alle considerazioni della Federal Reserve, perché in effetti l'economia globale sta rallentando e la Fed l'ultima cosa che vuole è creare attenzione, dei problemi ai paesi emergenti, perché di questo si sta parlando. Nel momento in cui ci fosse una tendenza all'aumento dei tassi di interesse, il debito di paesi emergenti, il debito in dollari di paesi emergenti finirebbe per portare a un servizio sul debito più elevato, a creare difficoltà dunque dal punto di vista dell'esborso, e questi paesi sono già in difficoltà, dunque si tratterebbe di una manovra quasi di austerità. La Fed vuol tenere questo aspetto molto presente, dunque ancora non sappiamo se ci sarà o meno questo aumento dei tassi. Sappiamo che JP Morgan Chase ha detto che un aumento dei tassi non sarebbe una cosa negativa, e sentiamo di nuovo la Yellen sempre sui tassi. The committee indicated in our most recent statement that we thought it could be appropriate to adjust rates at our next meeting. Ecco, qui si conferma questa sua linea sempre molto vaga, mai committal, mai per un impegno preciso. Dice, potrebbe essere appropriato aumentare i tassi, ma una decisione non è stata ancora presa. Se i dati macroeconomici in arrivo saranno in linea con le stime, la riunione di dicembre potrebbe essere una possibilità molto reale per un rialzo dei tassi di interesse. Ecco, qui si è tenuta invece più sugli aspetti macroeconomici interni americani ed ha aggiunto, e di nuovo questo è molto importante, una stretta presa prima piuttosto che dopo permetterà un incremento molto più graduale nel corso del tempo. Ecco, io nei due schieramenti, chi è a favore e chi è contro, da tempo sono schierato a favore di un aumento. A questo punto togliamoci questo dente e procediamo, tanto più che saranno aumenti molto molto molto graduali, e con queste ultime dichiarazioni la Yellen in qualche modo apre in quella direzione. Ma chi è che ha attaccato la Yellen in modo, direi virulento? Sentiamo. Janet Yellen should have raised the rates. She's not doing it because the Obama administration and the president doesn't want her to. Donald Trump, l'avete sentito, alla presentazione del suo nuovo libro ha attaccato direttamente la Yellen. In questa dichiarazione in particolare dice: la Yellen non sta alzando i tassi di interesse non per una ragione veramente specifica dal punto di vista economico, ma perché Barack Obama le ha detto di non farlo, perché fra un anno, quando il mandato del presidente sarà praticamente finito, lui vorrà giocare a golf più tranquillamente di quanto non faccia adesso, e vuole evitare accuratamente di rischiare di vedersi un'altra bolla esplodere durante la sua amministrazione. Su queste dichiarazioni che fanno sensazione da parte di Trump, mi sento di dire tranquillamente che l'amministrazione Obama si è tenuta fuori, non ha mai influenzato in modo diretto o cercato di influenzare in modo diretto la Fed. Sono i repubblicani alla Camera, sono i repubblicani in Congresso che insistono perché la Yellen aumenti questi tassi di interesse. Le considerazioni, secondo me, restano strettamente economiche. Il fatto che il governatore della Banca Centrale Americana abbia introdotto questo elemento dell'economia globale, è un fatto non secondario, è sicuramente logico e sicuramente da ponderare. Proprio qua a Washington ieri pomeriggio ho incontrato importanti personalità del Fondo Monetario Internazionale molto preoccupate dall'idea che un aumento dei tassi americani possa avere delle ripercussioni nei paesi emergenti. Allora, l'economia globale ne risentirebbe, e questo non fa bene a nessuno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come vi ho detto, Donald Trump ha presentato questo suo nuovo libro, Crippled America, How to Make America Great Again. L'America martoriata, come rendere di nuovo l'America grande. In questa conferenza stampa, oltre alla Yellen, ha attaccato i suoi compagni di corsa repubblicani. Trump cerca di tenere il passo, perché in realtà è in calo nei sondaggi, e dunque cerca come sempre di rilanciare. Non so se funzionerà, perché in effetti sembra aver raggiunto un plateau. Comunque, visto che ci prova, dedichiamola a lui questa canzone del giorno di Ray Srammerd, Up Like Trump. Up like Donald Trump, up, say swing like num chuck, up, she gon' chew you up, yeah, twerk like she from rap, hey, don't get me wild up, up, soldiers at a ten, hey. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!